Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. La Corte dei Conti lancia l'allarme sulla corruzione nella pubblica amministrazione. È una tassa immorale pari a 60 miliardi l'anno. I conti del 2008 deludono le aspettative, ma non è tutta colpa della crisi. E la Commissione europea apre una procedura di infrazione contro l'Italia. Non sono state equiparate le età pensionabili fra uomini e donne nel settore pubblico. Prima prova di maturità per mezzo milione di studenti, come previsto tracce su Svevo, internet e la caduta del muro di Berlino. Ahmadinejad attacca Obama, parla come Bush, ha indurito i toni contro l'Iran fomentato dalla Gran Bretagna. L'omicidio della Politkovskaya, processo da rifare, la Corte Suprema russa ha annullato la sentenza che aveva assolto i tre imputati. Una buona giornata da Alessandra Tedesco e da Alessio Maurizi. In primo piano il giudizio della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato. Nella sua relazione il procuratore generale Furio Pasqualucci ha innanzitutto lanciato un allarme corruzione. Ci racconta tutto in diretta Chiara Di Michele, che ha seguito appunto la relazione. Chiara. Sì, buongiorno. Il fenomeno della corruzione è una vera e propria tassa immorale ed occulta pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini. Così la Corte dei Conti ha lanciato l'allarme della corruzione, un tesoro che ammonterebbe a 50-60 miliardi di euro l'anno, che rischia di ostacolare gli investimenti esteri, di distruggere la fiducia nelle istituzioni e di togliere la speranza al futuro dei giovani, quanto ha detto il procuratore generale Furio Pasqualucci. La Corte dei Conti inoltre è delusa dagli indici relativi all'esercizio 2008, che hanno purtroppo disatteso l'auspicio della prosecuzione di un percorso virtuoso a riduzione del debito. Chiara, oltre alla corruzione, la Corte dei Conti si è occupata e ha parlato anche di pensioni e di lotta all'evasione fiscale. Sì, ha detto innanzitutto che la crisi economica e la flessione del reddito hanno rallentato le entrate fiscali, e il procuratore Pasqualucci ha poi sottolineato l'importanza del recupero dell'evasione fiscale. Sentiamolo. In termini di gettito si tratta di almeno 7 punti percentuali, corrispondenti ad oltre 100 miliardi di euro l'anno. Trattasi di un vero e proprio tesoro che, ove acquisito all'erario, risolverebbe non pochi problemi, consentendo una sollecita riduzione del debito, una riduzione della pressione fiscale ed un incremento delle spese in conto capitale tale da rilanciare l'economia. Sul tema delle pensioni, la Corte dei Conti invita a rivedere il sistema pensionistico adeguando l'età alla media europea, equiparando il trattamento tra uomini e donne. Proprio su quest'ultimo punto la Commissione europea ha deciso di riaprire una nuova procedura di infrazione contro l'Italia per non essersi adeguata alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che prevede appunto l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel sistema pubblico. Grazie Chiara Di Michele. Noi da Roma ci spostiamo all'Aquila, perché è una giornata abruzzese per Silvio Berlusconi, Mario Draghi, Emma Marcegaglia, e a sorpresa per gli studenti alle prese con la maturità nelle zone terremotate, anche per il ministro della pubblica istruzione Gelmini. E speriamo che non si spaventino con la sorpresa del ministro, perché insomma è un momento cruciale per chi sta facendo l'esame di maturità. Il presidente del Consiglio Berlusconi dunque è atteso all'assemblea pubblica di Farmindustria. Allora andiamo all'Aquila con Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sopralluogo nel capoluogo abruzzese per il Presidente del Consiglio a pochi giorni dal G8, ma è questa anche l'occasione per partecipare all'assemblea di Federpharma, che di fatto costituisce con le sue imprese il principale polo trainante dell'economia dell'Aquila e del suo territorio. Il Premier, parlando in precedenza con gli amministratori locali, interverrà tra breve qui all'assemblea. Ha rivendicato i meriti del governo per la ricostruzione dell'Aquila, le migliaia di sfollati che hanno trovato sistemazione nelle oltre 20 tendopoli allestite e poi nei tanti alberghi messi a disposizione nelle province abruzzesi. Entro novembre saranno pronte le case per 15.000 sfollati, ha garantito ancora Berlusconi. Il capitolo G8, in meno di 3 mesi è stata allestita alla perfezione la macchina organizzativa, ha detto il Cavaliere, per un summit all'altezza delle aspettative internazionali, ma in grado anche di contribuire al rilancio del territorio colpito dal sisma del 6 aprile. Vincenzo, come dicevamo, all'Aquila c'è anche il mondo dell'industria, iniziare dal presidente di Confindustria Marcegaglia. Sì, è così, il mondo produttivo è impegnato sin dai primi giorni del sisma alla ricostruzione dell'Abruzzo e lo svolgimento qui all'Aquila dell'assemblea annuale di Federfarma lo testimonia, ma nei commenti degli industriali vi sono anche le misure che arriveranno sul tavolo del governo nel Consiglio dei Ministri di domani, a partire dalla detassazione degli utili reinvestiti, un provvedimento che il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia valuta positivamente. Sentiamo. Ovviamente dobbiamo avere conferme domani, ma dalle cose che abbiamo sentito ci sono tutta una serie di provvedimenti che noi abbiamo richiesto da tempo, una detassazione degli utili reinvestiti, quindi un supporto alle imprese che continuano a investire anche in un momento difficile come questo, e questo è importante, un'accelerazione dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese in un momento di asfissia finanziaria, questo è importante, un premio alle imprese che non licenziano o che riprendono lavoratori dalla cassa integrazione e li formano, anche questa è una nostra richiesta ed è importante. Quindi se verrà confermato tutto quello che abbiamo sentito, pensiamo che sia un buon provvedimento che può supportare le imprese in un momento difficile come questo. Ma parlavamo dell'impegno di Federfarma per l'Aquila, siamo stati i primi a credere nella rinascita del territorio, ha detto il presidente dell'associazione Sergio Dompè, ascoltiamo le sue parole. Siamo qui all'Aquila perché pensiamo che uno degli obiettivi principali del paese a livello anche di bandiera sia la rinascita dell'aquilano inteso come attività, inteso come cultura, come università. E l'industria farmaceutica quindi è qui a dare una testimonianza concreta, anche perché l'industria farmaceutica fa il 27% dell'export dell'Aquila e perché siamo stati i primi a ripartire. Nel giro di 4 settimane abbiamo rimesso in piedi gli impianti e pensiamo che questo per la gente che lavora qui sia estremamente importante, oltre a essere importante per noi. Oggi all'Aquila c'è davvero il pienone, Vincenzo, perché c'è anche il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. È così, potremmo dire che oggi l'Aquila è un po' al centro dell'economia italiana e intervenendo proprio al rapporto sull'economia dell'Abruzzo il governatore della Banca d'Italia ha parlato di crescita ed ha spiegato il prodotto interno lordo se non succede niente, in altre parole ha detto Draghi, se non continua a cadere alla fine di quest'anno sarà sceso del 5% circa. E dall'Aquila è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, sentivate prima lo stesso Miglietta ma anche il presidente di Confindustria Marcegaglia a citare questo maxi decreto definito da molti la manovra d'estate che domani dovrebbe essere varato dal Consiglio dei Ministri. Allora sentiamo che cosa contiene, almeno secondo le indiscrezioni. Al Consiglio dei Ministri di domani Tremonti presenterà un pacchetto di misure che nelle intenzioni del governo dovranno rilanciare un'economia in crisi, con un prodotto interno lordo in calo del 5% ed un rapporto deficit-PIL tra il 4,6% e il 5%. La manovra estiva dovrebbe avere una portata tra i 5 e i 6 miliardi, risorse che saranno destinate soprattutto ai capitoli impresa, occupazione, lotta all'evasione e famiglia. La principale novità sarà la cosiddetta Tremonti-Ter, un meccanismo che permetterà alle imprese di detrarre parzialmente gli utili reinvestiti nell'acquisto di nuovi macchinari. Sembra certa l'introduzione del bonus occupazione, con incentivi alle aziende che assumono lavoratori in cassa integrazione e ai cassintegrati che vogliono mettersi in proprio. Prevista anche una norma che velocizza i pagamenti della pubblica amministrazione ai privati. Capitolo lotta all'evasione. Sarà creata una task force antifuga di capitali all'estero e dovrebbe essere introdotto lo scudo fiscale, la sanatoria per i patrimoni rimpatriati dai paradisi fiscali. Via libera anche al rimborso al 70% per i titolari di obbligazioni della vecchia Alitalia e dall'allargamento del bacino di soggetti che potranno ricevere le social card. La potranno ottenere le famiglie con redditi fino a 6.000 euro e figli sotto i 10 anni e gli ultra 65 anni con redditi fino a 8.000 euro. Slittano infine l'introduzione della class action, la cancellazione degli enti inutili e il divieto dell'utilizzo di buste di plastica. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. E adesso ci spostiamo sull'inchiesta della Procura di Bari, dalla quale è emerso che alcune ragazze sarebbero state pagate per partecipare alle feste nelle residenze private di Silvio Berlusconi. Ci sono degli sviluppi anche questa mattina. Andiamo a Bari con Giovanni Longo. Buongiorno Giovanni. Sì, buongiorno. L'auto di Barbara ha preso fuoco questa notte in pieno centro a Modugno, una città alle porte di Bari in cui vive la 23enne che in parte ha confermato il racconto di Patrizia D'Addario sulle feste private a Palazzo Grazioli. Il suo legale, l'avvocato D'Alessandro, dice che i carabinieri di Modugno stanno conducendo delle indagini. Non si conoscono ancora le origini dell'incendio. Tra le ipotesi non si esclude un cortocircuito, ma si sta verificando se qualcuno abbia appiccato dolosamente le fiamme. Intimidazione, ritorsione per quello che abbia raccontato, oppure è più semplicemente un atto vandalico. Troppo presto per dirlo. Intanto sul fronte investigativo, la Procura di Bari ha ascoltato fino a questo momento una ventina di ragazze. Proseguono le indagini dei finanzieri sul presunto giro di escort che avrebbero partecipato a pagamento a incontri esclusivi anche in residenze private del Premier. Sullo sfondo l'altra ipotesi degli investigatori, cioè che alle feste organizzate dall'imprenditore barese Giampaolo Tarantini scorressero fiumi di cocaina da Bari a Roma, da Milano alla Sardegna, donne, droga, favori, mazzette, con l'obiettivo, secondo l'accusa, di fare e far fare nuovi affari per Tarantini nella sanità, ma da ultimo, a quanto sembra, anche i nuovi business che stava organizzando da Roma. Per il momento dalla Procura di Bari è tutto. Grazie Giovanni Longo. Noi ora parliamo invece del 500.000 di ragazzi e di ragazze che stanno vivendo, insomma, delle ore che piuttosto tremano. Intense, stanno tremando perché... No, forse ormai hanno smesso di tremare, insomma, stamattina magari sia l'inizio. Sì, perché oggi c'è la prima prova della maturità, il tema di italiano. Noi siamo in collegamento sia con Milano che con Roma. Milano c'è Micaela Nasca, ci sei Micaela? Sì, buongiorno, mi trovo... E a Roma, aspetta un attimo, vediamo se c'è anche Cristina Fei. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, ci siete. Allora, Micaela, a Milano Qualcuno ha già finito le prove? Sì, io mi trovo di fronte al liceo scientifico Vittorio Veneto, dove stanno iniziando ad uscire proprio in questi momenti i ragazzi che hanno affrontato la prova scritta, questo primo grande scoglio dell'esame di Stato. Rispetto a questa mattina, cioè da dire, le loro facce sono decisamente più rilassate, escono a scaglioni e subito, telefonino alla mano, commentano con parenti e amici le tracce e lo svolgimento. In molti hanno scelto i temi che alla vigilia erano tra i più gettonati, quindi la coscienza di Zeno di Italo Svevo, internet e i social network, l'anniversario dei 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, ma c'è anche chi si è buttato su argomenti che non erano tra i più attesi, come Beatrice di Quinta M, che ha svolto il saggio sull'origine e sugli sviluppi della cultura giovanile. Beatrice, com'è andata? La prova è andata bene, non mi aspettavo questo tipo di traccia, ma mi ha interessato subito e quindi ho deciso di intraprendere questa traccia qui. Ecco, alla tua traccia erano allegate anche delle fotografie sui cambiamenti sociali degli ultimi anni, l'hai trovata un'idea interessante? Sì, l'idea è stata interessante e anche utile perché tramite queste fotografie venivano rappresentate delle icone come Jim Morrison piuttosto che il punk in generale, ed era appunto utile per poter seguire una traccia comune a tutte le varie epoche. Domani? Domani sarà decisamente più pesante, ma cercheremo di cavarcela anche lì. Ecco, adesso Micaela ti lasciamo a Milano, vogliamo vedere un po' come se la sono cavata quelli del centro-sud, cioè andiamo a Roma con Cristina Fei. Cristina, lì com'è la situazione? Sì, qui a Roma non sono ancora usciti gli studenti del liceo scientifico Aristotele, stanno, come sapete, per scadere le 6 ore a disposizione per il tema di italiano e alcuni genitori sono già qui ad attendere i figli, si respira un'aria decisamente più distesa rispetto a questa mattina. Le mamme e i papà, reduci da una notte purtroppo insonne, tengono ancora le dita incrociate. Sono fiduciosi nell'esito positivo della prima prova, anche perché sono molti ragazzi che si sono preparati su Svevo. Facilita, secondo i genitori, la traccia su internet e i social network, pane quotidiano degli adolescenti. Preoccupa invece il tema storico sui 150 anni dell'Unità d'Italia. E per gli studenti più insicuri, le mamme sperano nel paracadute delle tracce generiche sulla creatività e l'amore giovanile. Prima prova quasi archiviata dunque, ma per i ragazzi del liceo scientifico il vero ostacolo sarà domani con lo scritto di matematica. Eh sì, la matematica. Grazie allora Cristina Fei da Roma, Michela Nasca da Milano. Noi parleremo ancora di maturità verso le 13.30 con un ospite, avremo ancora lo scrittore Alessandro Perissinotto con il quale commenteremo queste tracce. 13.17 minuti, ben ritrovati con GR Extra Large. Nella prima parte siamo partiti dall'allarme della Corte dei Conti sulla corruzione nella pubblica amministrazione in Italia, un allarme che vale 60 miliardi di euro l'anno. E poi il monito della Commissione Europea, che è più di un monito sulle pensioni in Italia, è stata aperta una procedura di infrazione perché non sono state equiparate le età pensionabili tra uomini e donne nel settore pubblico. Poi ci siamo occupati ampiamente di questa giornata di esame di maturità, la prima per 500.000 ragazzi, e abbiamo parlato del tema di maturità e ce ne occuperemo anche tra poco commentando tutte le tracce. Adesso invece parliamo di Iran. E lo facciamo con le ultime parole del presidente iraniano Ahmadinejad, che oggi è tornato a prendersela con chiunque interferisca con le vicende del suo paese. Ha detto: Obama è come Bush, intendendo un capo di Stato con il quale non è possibile il dialogo. E intanto proseguono le manifestazioni, prosegue la repressione del regime che ieri ha accusato i manifestanti di essere manovrati dalle potenze straniere, mentre oggi un alto esponente religioso ha detto che così facendo il regime potrebbe cadere. Allora andiamo con la cronaca. Dopo giorni di silenzio, il presidente iraniano Ahmadinejad fa sentire la sua voce, anche se tramite lui è la guida suprema che in realtà rende pubblico il suo pensiero. La rabbia del regime viene indirizzata contro il nemico di sempre, gli Stati Uniti. Non importa se l'attuale amministrazione fa di tutto per distinguersi dalla precedente. Il presidente americano Barack Obama sull'Iran ha fatto dichiarazioni come quelle del suo predecessore George W. Bush, afferma Ahmadinejad, ed è caduto nella trappola di certi paesi europei. Il riferimento è al tono più duro usato da Obama per condannare la repressione delle proteste, che anche ieri hanno fatto dei martiri. Non sapremo mai quanti morti, ma sembra che polizie e milizie islamiche, molti dei quali in borghese, non abbiano esitato a sparare sulla gente radunata vicino al Parlamento, a picchiare con manganelli e catene, con una ferocia che è ben visibile in video come questo, che chiunque può trovare su YouTube. Il grande ayatollah dissidente Montazeri, che vive a Qom, ha avvertito: se la repressione continuerà potrebbe determinare la caduta dell'attuale governo. Intanto si è saputo che ieri Mousavi e l'ex presidente Rafsanjani hanno avuto un incontro con la Commissione parlamentare per gli affari esteri e la sicurezza nazionale. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E la comunità internazionale sta assistendo a questa violenta repressione. Sembra quasi essere una ripetizione di piazza Tiananmen 20 anni dopo, con l'Iran naturalmente al posto della Cina. E per la comunità internazionale c'è un dilemma, insomma, prendere posizione e se sì in che modo, col rischio però di innescare una spirale negativa con il regime, oppure avere insomma un atteggiamento più distante. E allora ne vogliamo parlare con Stefano Silvestri. Buongiorno. Buongiorno. Presidente dell'Istituto Affari Internazionali, è questo, Silvestri, il dilemma che in queste ore, diciamo, attanaglia, se vogliamo, la comunità internazionale? Beh, diciamo che la comunità internazionale avrebbe voluto molto iniziare un dialogo con l'Iran, ma l'Iran mi sembra talmente preso dalla sua crisi interna e della crisi del suo regime poi anche, che non ha alcuna voglia di dialogare o forse non ne ha la capacità. Ma io credo che in queste situazioni ci siano poche alternative, cioè bisogna chiaramente indicare che c'è una condanna, la disponibilità a un dialogo, ma anche la disponibilità a continuare a mantenere e forse anche indurire le sanzioni nei confronti del regime iraniano. Non mi pare che ci siano, che si, non metterei in moto discorsi, diciamo, di tipo militare, che mi sembra che confondano solo le idee. Ma il discorso di tipo economico e politico può continuare benissimo, deve continuare. A proposito di sanzioni, no? Il vero potere, la vera potenza di un paese, al di là insomma della diplomazia eccetera, si misura soprattutto con la sua economia e le sue relazioni anche commerciali. Qual è la situazione dell'Iran e delle relazioni che l'Iran ha con gli altri paesi dell'Occidente? Insomma, quanto pesa l'Iran? Ci sono due punti delicati. L'Iran è un paese in grossa crisi, ma ci sono due o tre punti delicati piuttosto importanti. Uno, evidentemente, l'Iran è tenuto su dal prezzo ancora relativamente alto del petrolio. Più si riesce a abbassare il prezzo del petrolio iraniano, più il regime è in crisi. Però questo ovviamente è un discorso estremamente complesso e di tipo globale, che non dipende solamente dall'Iran. L'altro problema è che l'Iran commercia con alcuni paesi, tra cui molto importante è la Russia. E qui c'è un discorso, c'è il discorso con la Russia degli europei e degli americani. Fino ad oggi la Russia si è rifiutata di mettere in discussione questo aspetto dei suoi rapporti economici, potrebbe anche essere disponibile se cambiano i rapporti tra Occidente e Russia in qualche misura. Quindi c'è un aspetto molto importante, lo vedremo probabilmente al G8, lo vedremo sicuramente nel vertice tra Obama e Medvedev, che potrebbe determinare anche il futuro del rapporto con l'Iran. Silvestri, c'è una dichiarazione anche di Moussaoui, poco fa ha detto chi è dietro ai brogli, il candidato moderato alle presidenziali iraniane, ricordiamo sconfitto da Ahmadinejad, ha detto chi è dietro ai brogli elettorali è responsabile del bagno di sangue. Io le vorrei chiedere anche questo, perché il regime secondo lei è così preoccupato di queste manifestazioni che sicuramente sono imponenti ma probabilmente riguardano una minoranza, visto che la maggioranza tutto sommato ha comunque, l'ha comunque ottenuta il presidente Ahmadinejad? Perché questa forte preoccupazione? Quale maggioranza abbia ottenuto Ahmadinejad, devo dire, dall'analisi delle tendenze del voto e dell'effettivo conta dei voti, è tutto da vedere. Cioè, devo dire che effettivamente i dati non sono assolutamente credibili. Però direi che il regime è preoccupato perché c'è un problema di successione. C'è il problema di successione di Khamenei, in realtà. Khamenei non è mai stato molto forte, è abbastanza debole anzi come leader e come guida suprema, e ha più di 70 anni e non sta molto bene, e il problema di come, di chi sarà il suo successore è molto aperto. Alcuni parlano del figlio ad esempio, ma è molto improbabile. Grazie a Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Noi continuiamo a parlare di Iran perché è ancora incerta la sorte dei calciatori della nazionale iraniana che nella sfida contro la Corea del Sud del 12 giugno scorso a Seul scesero in campo, forse ve lo ricorderete, con un braccialetto verde che è il simbolo del riformatore Moussaoui, diciamo sostanzialmente delle persone che stanno protestando contro, certo, la vittoria di Ahmadinejad. Su questo la federazione iraniana ha negato che per loro vi siano state conseguenze, ripercussioni, ma fonti ufficiose parlano di una squalifica a vita per alcuni di loro, tra cui Ali Karimi della squadra del Persepolis e Madavicchia del Eintracht Francoforte. Di altri due giocatori non si avrebbero notizie da giorni. Dario Ricci ha intervistato Fatima Destani, procuratrice di calcio italo-iraniana che segue proprio molti campioni del Persepolis. Io ho sentito che il governo probabilmente ha chiesto alla federazione iraniana di non convocarli per le prossime partite. Non so se sarà così o no. È sempre difficile mischiare sport e politica, ma poi sappiamo che come governo iraniano è molto severo. Secondo me sapevano che succederà. Se tutte squadre non fanno la stessa cosa, sapevano che succederà a loro. Erano consapevoli del rischio che stavano correndo. Tra l'altro ci sono anche giocatori proprio del Persepolis, no? Come Ali Karimi, che è considerato il Maradona d'Asia. Sì, Ali Karimi, Mehdi Matavica, Vahid Hashempour, Ali Karimi, tutti loro sono miti per iraniani. Era importante, hanno rischiato, ma erano veramente grandi. Fare un gesto così. E l'intervista integrale con Fatima Destani andrà in onda domenica alle 16.30 nella trasmissione A Bordo Campo. Ora torniamo in Italia, precisamente in Calabria, perché la regione ha condotto un'indagine sulla cementificazione delle spiagge. Beh, ne avrà viste sicuramente delle belle in Calabria. E infatti il risultato è che c'è un abuso edilizio ogni 134 metri. 700 km di coste e 5.210 abusi edilizi, più di 400 su aree definite a grave rischio idraulico. Sono questi i numeri che fotografano una situazione che da anni d'estate è sotto gli occhi di tutti, non solo dei calabresi. I turisti che scelgono luoghi di grande valore paesaggistico e anche archeologico, come la costa di Scilla, l'area di Tropea, quella di Soverato o l'isola di Capo Rizzuto, devono fare i conti con l'architettura dello scempio, quella che non tiene in alcun conto l'ambiente su cui sorge. Alberghi che coprono interi versanti, scalinati a mare, edifici sulle spiagge, costruzioni incompiute e mai abbattute. Un esempio per tutti a Falerna, in provincia di Catanzaro, è la cosiddetta Palafitta, un edificio di tre piani costruito talmente vicino al mare che con l'alta marea non solo viene lambito, ma addirittura superato dalle onde. È ancora lì perché dopo decenni non è chiaro se sorga o meno su terreno demaniale. Vera e propria offesa al territorio, come scrivono gli esperti dell'assessorato all'urbanistica che hanno condotto l'indagine, offese a cui la regione promette di porre riparo. Il presidente Agazio Loiero. Da noi il territorio territorio in questi 50 anni è stato devastato, saccheggiato. Abbiamo cominciato ad abbattere con mostri. Stiamo tentando, tenga conto che anche l'abbattimento ha un suo costo, ma lo stiamo facendo con grande determinazione. Volevamo dare un segno che di fatto la sensibilità era mutata, se posso dirlo, capovolto, perché diciamo la verità, in passato c'è stata anche una tendenza all'SFR, questo non è più possibile qui da noi. Se poi facciamo sanatorie, quelle sono state tali per noi, perché la gente magari ha costruito sapendo che prima o poi ci sarebbe stato un condono e questo non è più possibile. La Regione, con un accordo quadro finanziato dallo Stato con 5 milioni di euro, ha già deliberato l'abbattimento di 9 ecomostri, ma anche gli enti locali, avverte l'assessore all'urbanistica Tripodi, dovranno fare la loro parte perché è dai comuni che dipende gran parte dell'atteso risanamento. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. E dai problemi gravi della Calabria sicuramente vogliamo invece tirare un po' il fiato, ci vogliamo divertire anche un po' e parliamo di calcio. Diamo la parola a Dario Ceccarelli che ci spiega come mai la Confederations Cup ha lasciato sul terreno le grandi d'Europa e del mondo. Casa anche la Spagna, le avevamo dati per imbattibili le Furie Rosse con la loro marcia trionfale di 15 vittorie consecutive e invece, schiacciati dagli Stati Uniti, tornano dalla Confederation Cup con le pive nel sacco, confondendoci ancora di più le idee. Ci manca solo che il Brasile le prenda dal Sudafrica e il quadro è completo. Di sicuro c'è qualcosa di strano se sia i campioni del mondo che quelli d'Europa finiscono al tappeto, probabilmente le tossine di una stagione troppo lunga, ma il mal comune, nostro vecchio vizio, non ci deve consolare o mandare fuori strada. Gli spagnoli avranno le loro grane, ma le nostre sono di certo peggio, a cominciare dall'anagrafe, paese di vecchi anche nel calcio. Quindi niente scuse, ma avanti col rinnovamento, altrimenti si riparte da Del Piero Maldini. E parafrasando il poeta, beata la nazionale che non ha bisogno di sfiancati eroi calcistici, che in altri paesi fanno già gli allenatori da un pezzo. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13.33 e queste le principali notizie della giornata. La Corte dei Conti lancia l'allarme sulla corruzione nella pubblica amministrazione. Una tassa immorale pari a 60 miliardi l'anno. I conti del 2008 deludono le aspettative, ma non è tutta colpa della crisi. E la Commissione europea apre una procedura di infrazione contro l'Italia. Non sono state equiparate le età pensionabili fra uomini e donne nel settore pubblico. Bari Gate, incendiata l'auto di Barbara Montereale, una delle ragazze che ha partecipato alle feste a Palazzo Grazioli. Prima prova di maturità per mezzo milione di studenti, come previsto tracce su Svevo, internet e la caduta del muro di Berlino, le commenteremo fra pochissimo. Ahmadinejad contro Obama, parla come Bush, ha indurito i toni contro l'Iran. L'omicidio della Politkovskaja, processo da rifare, la Corte Suprema russa ha annullato la sentenza che aveva assolto i 3 imputati. Cioè i cittadini del mondo che viaggiano per turismo nel mondo oggi sono 800 milioni, fra 5 anni... E questo è il Presidente del Consiglio Berlusconi, l'avevamo annunciato, atteso all'Aquila per una giornata abruzzese, sentiamo il passaggio del suo intervento. Io qua così rivolgo anche a tutti i miei amici un caldo invito a dare una mano a Don Luigi Maria Verzé sulla cosa straordinaria che sta facendo, lo sapete tutti, no? Perché è un'idea che vi riguarda tutti. Che ci e riguarda questo tutti. È Berlusconi, insomma Verzé. Abbiamo detto il tema di questa giornata, l'Aquila, il centro della vita economica del paese oggi con Marcegaglia e anche con Draghi che ha parlato, il governatore della Banca d'Italia di economia. Questo Berlusconi, adesso però il tema di approfondimento... Il tema d'italiano che oggi avranno ormai quasi finito quasi tutti il mezzo milione di studenti che oggi alle prove con la prima prova della maturità. Diamo innanzitutto il buongiorno ad Alessandro Perissinotto, scrittore, in particolar modo autore di Gialli e docente di teorie tecniche delle scritture all'Università di Torino. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Ecco, ci ritroviamo dopo averlo sentito già ieri. Prima però di commentarle, le ricordiamo queste tracce. Alessio. Allora, cominciamo. Italo Svevo, la sua coscienza di Zeno per quanto riguarda l'analisi del testo. Per quanto riguarda invece il saggio breve o l'articolo di giornale, gli argomenti erano diversi a seconda, insomma, dei vari tipi di istituto. Gli ambiti erano, insomma, innamoramento e amore. Oppure si doveva riflettere sull'origine e gli sviluppi della cultura giovanile o ancora su social network, internet e numeri. media, insomma, una traccia abbastanza attesa. Metto che la cultura giovanile soprattutto mi interessa molto per capire un po' di cosa si tratta. L'altro tema di argomento storico è invece dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia, che però arriveranno l'anno nel 2011. E infine il tema di carattere generale invitava a riflettere sul significato di libertà e democrazia a 20 anni dalla caduta del muro di Berlino. Per il Sinotto, ieri lei aveva fatto, insomma, aveva ipotizzato le sue tracce, non ne ha indovinata neanche una. Come previsto, insomma. L'unica cosa che sono riuscito a indovinare è che non avrei indovinato. Ecco, quello era una cosa sicura. Però, insomma, molte di queste erano state previste nel cosiddetto Toto-tema. Partiamo da Italo Svevo e la coscienza di Zeno, un tema che le piace? Sì, ecco, io farei proprio il gioco del mi piace e non mi piace, se me lo permettete. Assolutamente sì, ne ha facoltà. Certo. Ecco Svevo mi piace. Nell'analisi del testo direi che è un autore azzeccatissimo, perché riesce a sperimentare senza bisogno di stravolgere il linguaggio. A 18 anni c'è bisogno di capire questo e di non sentirsi subito Joyce per provare, o a scrivere, appunto io insegno teoria delle scritture, per provarsi come narratore, per sperimentarsi come narratore, meglio Svevo che Joyce. Ecco. Quindi questo mi piace. Così come mi piace il tema sui social network, perché i ragazzi, e anche noi devo dire, usano Facebook, usano gli altri social network e spesso non ne capiscono la portata, il significato, perché arrivano ora, cosa ci permettono di fare. Quindi, però mi metto nei panni del vecchio, non so, critico, parrucone che del dice vecchio. Del vecchio che dice: beh, ma insomma, un tema sul social network sarà troppo facile per questi ragazzi che già lo frequentano fuori dalla scuola, poi parlarne anche nel tema diventa riduttivo, non so. Ma a me sembra troppo difficile, se proprio vogliamo trovargli un difetto, perché capire le cose che si fanno tutti i giorni è molto più difficile. Il paragone che faccio sempre è quello del camminare. Qualcuno di noi saprebbe spiegare come fa a camminare, eppure lo fa, ma è difficilissimo spiegare come si cammina. E per i nostri ragazzi riflettere su come usano Facebook è molto più difficile che fare un tema su Carducci. Senta, il tema di argomento storico è dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia, però l'anniversario sarà nel 2011. Le piace questa traccia? Entriamo nel non mi piace. Beh, innanzitutto non mi piacciono gli anniversari. Dell'Unità d'Italia uno si ricorda una volta ogni 50 anni, poi rimane lettera morta. In più c'è stato un tentativo di depistaggio, l'anniversario anticipato. È come festeggiare Capodanno a settembre per togliersi il problema del cenone. Ecco. Unità d'Italia lo trovo un tema veramente abusato, un po' da libro cuore. Così come non mi è piaciuta l'altra celebrazione, associare libertà, la riflessione sulla libertà e i 20 anni dalla caduta del muro di Berlino mi sembra estremamente riduttivo. Libertà e democrazia, con i problemi che abbiamo oggi quotidianamente di libertà di informazione, e parlo soprattutto di questo paese, libertà di informazione, libertà di partecipazione democratica, ecco, mi sembra che associare la libertà alla caduta del muro di Berlino sia un'operazione biecamente ideologica e che poi non è sentita neanche dai ragazzi della Germania Est, figuriamoci dell'ex Germania Est, figuriamoci dei nostri. E questo è un bel punto interrogativo. Grazie Alessandro Perissinotto, scrittore, per aver commentato con noi le tracce dei temi della maturità, che credo i ragazzi hanno mai finito di svolgere, insomma. E a proposito di libertà di informazione, di questo parlava anche Perissinotto, ci sono sviluppi, andiamo in Russia, nelle indagini che sono seguite all'omicidio della giornalista Politkovskaya. La Corte Suprema russa ha annullato per vizi procedurali la sentenza assolutoria di primo grado nei confronti di 4 imputati rimessi in libertà a febbraio. Nessuno di loro, tuttavia, è accusato di essere esecutore o mandante dell'omicidio che il 7 ottobre 2006 tolse la vita a una giornalista scomoda, una donna che aveva il coraggio di denunciare gli abusi compiuti dai militari russi in Cecenia e di puntare il dito direttamente su Vladimir Putin. In un paese in cui il sistema giudiziario dipende direttamente dal potere politico, in ogni sentenza si cerca di leggere una possibile svolta verso un funzionamento migliore dei tribunali, verso il traguardo dell'indipendenza dei giudici. Finora con la presidenza Medvedev i toni sono cambiati, il richiamo allo Stato di diritto ricorre frequentemente, ma le riforme restano sulla carta. La riapertura del processo Politkovskaya potrebbe essere un segnale positivo, ma che verrebbe confermato solo se un giorno si condannassero i veri assassini e i mandanti. Antonella Scott, GR24, Sole 24 Ore, Mosca. Giulia Crivelli per la nostra rassegna stampa internazionale. Una notizia che oggi è riportata per la verità anche da alcuni quotidiani italiani, ossia che in Spagna i giudici avrebbero preso un po' le difese della Chiesa nel progetto, diciamo, nel contestare il progetto di riforma sull'aborto voluto da Zapatero. Come ne parlano i giornali spagnoli? Grande spazio naturalmente a questa vicenda sia su El País che El Mundo che ABC, che sono i tre grandi quotidiani spagnoli. Questo parere che eventualmente questo organo consultivo un po' simile alla nostra Corte Costituzionale darà entro il 23 luglio, per ora appunto si sono annunciate, cioè annunciato il disaccordo di alcuni dei giudici, non è vincolante per l'approvazione della legge, però certo ha un peso, diciamo che in questo caso non si conta questo voto ma si pesa, e quindi è seguito con grande attenzione. La Chiesa si è già schierata, lo sappiamo, è immaginabile contro questa legge. El País titola sulla presa di posizione, sulla risposta del ministro per l'uguaglianza Barbara Aido, che ha spiegato che questa legge sarebbe costituzionale esattamente come in qualsiasi altro paese dell'Europa. C'è poi un intervento di un avvocato, di un giurista, Alberto Habonero, che prega di tenere la politica separata dal diritto. El Mundo invece preme sul fatto che questo parere dei giudici rafforza l'idea che in realtà la maggior parte dell'opinione pubblica spagnola è contro questa possibilità di dare alle sedicenni il diritto di abortire. E fin qua la Spagna. Adesso invece la Wall Street Journal, una di quelle notizie che verrebbe voglia di dire è una vera notizia. Proprio il segno della globalizzazione, no? Lo spirito del tempo, ne parliamo tanto e poi alla fine questi sono appunto i veri segnali. È il titolo di prima pagina del Wall Street Journal, a quattro colonne, la caccia al petrolio della Cina procede. La Cina ha appena comprato per 7,19 miliardi di dollari una delle più grandi compagnie, si chiama Adax Petroleum, è specializzata nella ricerca di petrolio. C'è una foto in prima pagina di una di queste piattaforme, di questi segugi del petrolio all'argo delle coste nigeriane. Questo è un segnale, come sappiamo tutti, che la Cina non solo è affamata di petrolio e quindi lo comprerà sempre di più laddove disponibile, facendo forse anche in qualche modo modificando i prezzi a cui siamo abituati, ma soprattutto se lo vorrebbe trovare da sola, e quindi è pronta a spendere in questo senso. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiremo con te domani ancora per una panoramica sui giornali internazionali. Ora parliamo di un altro anniversario. Prima parlavamo del muro di Berlino. Non era d'accordo. Però noi giornalisti ci andiamo un po' avanti con gli anniversari. Ci piacciono gli anniversari. A 40 anni dal Festival di Woodstock, una mostra a Milano alla Triennale Bovisa da domani al 20 settembre, che vuole celebrare appunto quello che è stato il più grande raduno musicale di tutti i tempi. Del 1969, quando a Bethel, una piccola località rurale nello stato di New York, andava in scena quello che sarebbe diventato uno dei più leggendari festival musicali della storia del rock, il Woodstock Music and Art Fair, una tre giorni di musica dal 15 al 18 agosto in cui si esibirono da Jimi Hendrix a Janis Joplin, dagli Who a Crosby, Stills, Nash & Young, ai Jefferson Airplane, a Santana, soltanto per citarne alcuni. Già alla fine di luglio la contea di Sullivan venne invasa pacificamente da migliaia di persone provenienti da ogni parte degli Stati Uniti. Alla fine furono quasi 500.000, qualcuno dice anche 1 milione. Un movimento di persone, poi ribattezzato Woodstock Nation, che condivideva ideali di pace e amore, di cui la musica rock era la sintesi perfetta. Con l'esperienza di Woodstock si sono confrontate le generazioni cresciute nei decenni successivi. E a quasi 40 anni da quel grandioso raduno musicale, una mostra, la Triennale Bovisa di Milano, intitolata Woodstock The After Party, in programma fino al 27 settembre, vuole celebrarne l'anniversario. Davide Giannella, uno dei curatori della mostra. Si parte da Woodstock come se fosse il presupposto di quello che poi è accaduto fino ai giorni nostri, per cui prendiamo in considerazione vari festival, un po' come se appunto fosse Woodstock l'elemento generatore di quello che è venuto dopo, nel senso che ha sdoganato tutta una serie di atteggiamenti o di aspetti che poi si sono sviluppati nel tempo, che hanno ritrovato sostanzialmente una certa continuità. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. l'ultima parte del GR Extra Large, una storia di cronaca innanzitutto, Alessio. Eh sì, ci porta a Milano. Monica Morra, uccisa dall'ex marito 2 giorni fa proprio a Milano davanti all'asilo dove stava accompagnando il figlio di 2 anni. Aveva già denunciato più volte il suo persecutore in base proprio alla nuova legge sullo stalking. L'aveva fatto già il 12 giugno la prima volta, poi di nuovo il 17 e il 18 giugno. In attesa che il fascicolo venisse valutato, nessuno però era intervenuto per contenere la situazione che era sfociata poi appunto nella tragedia. Ed è davvero incredibile, insomma, a questo punto non ha forse più senso cercare di rispondere a queste domande, però noi lo facciamo. Perché questi tempi? Perché questi tempi burocratici? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto a Massimo Lattanzi, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking. Se siamo fortunati e nella norma, per fortuna, anche in pochi giorni possiamo ottenere questi interventi. Se la struttura di polizia o dei carabinieri sono oberati di attività, piuttosto che l'autorità giudiziaria ha sul tavolino tantissime richieste, purtroppo i tempi si possono allungare. Diciamo che proprio una tempistica massima esiste, ma non esiste una tempistica minima. E noi lo stiamo dicendo da diverso tempo, non peraltro a febbraio abbiamo aperto un centro di ascolto a Milano che riceve numerosissime richieste e da anni stiamo dicendo che ahimè il centro nord sono le regioni più colpite dagli atti persecutori e dagli atti di stalking, non fosse altro anche per il discorso degli omicidi. Il 10% degli omicidi dolosi che avvengono in Italia hanno come prologo atti di stalking. Ricordate l'italiana uccisa in Turchia ad aprile dell'anno scorso? Era Giuseppina Pasqualino di Marineo, in arte Pippa Bacca. L'artista milanese di 33 anni era stata violentata e uccisa appunto in Turchia. Ebbene, oggi è stato condannato al carcere a vita Murat Karateş, 38 anni, il turco reo confesso appunto del suo omicidio. Ed ora un appuntamento per gli amanti della letteratura, perché da oggi fino a domenica a Verbania, siamo sul Lago Maggiore, c'è Letteraltura, il festival della letteratura di montagna. Sentiamo. La montagna raccontata, cantata, ammirata. La montagna degli alpinisti, ma anche quella dei poeti e degli scrittori. Quella di chi ci resiste e ci lavora nonostante tutto, ma anche la montagna come confine, come luogo di incontro e spazio della moderna riflessione ecologica. Una montagna di carta che si racconta attraverso le pagine degli autori, quest'anno riuniti nel nome di Dino Buzzati. È Letteraltura, terza edizione, fino a domenica, appuntamento a Verbania, sponda occidentale del Lago Maggiore, proiettata sull'Ossola e con vista sullo spartiacque alpino. Letteraltura, festival di letteratura, di montagna, di viaggio e di avventura, è un progetto corale sostenuto da 120 volontari e animato da Giovanni Margaroli. Con una sezione che mi ha incuriosito è Resistenze. Significa da una parte guardare alla resistenza, quella storica, che su queste montagne ha vissuto alcune delle pagine più tragiche, anche più gloriose. La Repubblica dell'Ossola è probabilmente quella più nota. Però parliamo anche di quelle esistenze in montagna che in fondo sono delle resistenze, cioè parliamo di quelle persone che vogliono far rivivere la montagna e lo fanno con grande dedizione e anche con grande sacrificio. Per esempio faremo venire i ragazzi e i maestri della scuola di Comboscuro, che è una scuola delle valli occitane che resiste tenacemente alla chiusura. Letteraltura è anche una festa di volontari. Sì, assolutamente, questo è una delle caratteristiche del nostro festival. Ci sono parecchi volontari, molti sono giovani, persone che si affacciano a questo mondo senza esperienza, né? Quindi per loro spero che sia il momento per magari suscitare curiosità, interesse, poi magari avviare un percorso di riflessione più ampio. Prima di lasciarci, magari un paio di appuntamenti per il fine settimana da suggerire ai nostri ascoltatori? Ma io consiglierei certamente alcuni incontri con gli alpinisti che aprono una riflessione, appunto, come dire, sui sacrifici che gli alpinisti fanno, e Simo Smart, che è un grande fotografo. Poi dovrei dire tutti, perché fino a domenica dunque il programma completo è sul web all'indirizzo letteraltura.it. Gigi Donelli, Radio 24 Sole 24 Ore, Verbania. La Corte dei Conti lancia l'allarme sulla corruzione nella pubblica amministrazione. È una tassa immorale pari a 60 miliardi di euro l'anno. I conti del 2008 deludono le aspettative, ma non è tutta colpa della crisi. La Commissione europea apre una procedura di infrazione contro l'Italia. Non sono state equiparate le età pensionabili fra uomini e donne nel settore pubblico. Bari Gate, incendiata l'auto di Barbara Montereale, una delle ragazze che ha partecipato alle feste a Palazzo Grazioli. Prima prova di maturità per 500.000 di studenti. Come previsto, sono uscite tracce su Svevo, internet e la caduta del muro di Berlino. Ahmadinejad attacca Obama, parla come Bush, ha indurito i toni contro l'Iran fomentato dalla Gran Bretagna. L'omicidio della Politkovskaya, processo da rifare. La Corte Suprema russa ha annullato la sentenza che aveva assolto i 3 imputati. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotto da Alessio Maurizi e da Alessandra Tedesco. Il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Filippo Aureggi. Come sempre vi ricordiamo, se volete scriverci, il nostro indirizzo è extralarge@radio24.it. Il prossimo GR alle 15, noi ci risentiamo come sempre con Extra Large domani alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.